So che senti pianissimo, per cui qui i potenti mezzi della radio sono ormai al declino durante Ferragosto. Allora, a te anche un racconto di quello che sta succedendo in valle, di quella che è stata la settimana di mobilitazioni e di quelle che saranno poi le prossime mobilitazioni nei prossimi giorni. Una tua impressione, insomma, anche. Allora, innanzitutto vi dico, vi sento male, credo che sia un problema del vostro microfono. Come al solito, ma noi no, nel nostro telefono, perché i telefoni della radio, sai, come ben sai, insomma, hanno un che di passaggi, qua, prima li ascolta quello, poi li ascolta quell'altro, insomma, quindi prima che arrivano al nostro mixer sono un po' lontani, però noi ti sentiamo benissimo. Allora, diciamo così, ieri c'è stata una giornata molto difficile, me l'hanno già raccontata e anche qui nei commenti, nelle discussioni che ci siamo fatti sia al presidio che al campeggio di Chiomonte, è stata effettivamente una giornata particolare, iniziata tra l'altro prestissimo, insomma, e poi che è andata avanti con un crescendo di repressione, di lavori e poi anche con accenni di resistenza da parte dei manifestanti, insomma. E è un'iniziativa che ci si aspettava questa situazione. Il dato fondamentale è che da giorni i lavori erano comunque diciamo così bloccati nel cantiere e non cantiere, perché ricordiamo che i lavori che si stanno sono lavori che vengono praticamente realizzati all'interno del fortino militare e quindi si sta predisponendo tutta l'area per poi procedere agli espropri all'inizio dei lavori veri e propri del cantiere. Decine e decine, se non centinaia di carabinieri, polizia, i cacciatori di Sardegna, i cacciatori di Calabria, che sono insomma un elemento di costante, diciamo così, inquietudine, soprattutto sui sentieri di montagna quando magari si tenta di raggiungere appunto i presidi dei manifestanti, insomma. E quindi una giornata difficile alla quale sicuramente il movimento ha risposto con il massimo della capacità possibile in quella condizione, in giornate come queste, insomma, siamo proprio a ridosso di Ferragosto, a ridosso delle vacanze estive, quindi con una presenza piuttosto ridotta sia da parte dei valsusini che insomma dei compagni e delle compagne che vengono da tutta Italia. Però insomma alla fine della giornata, prima che accadesse questa grande provocazione legata al lancio di lacrimogeni e del taglio delle gomme, insomma c'era comunque abbastanza soddisfazione, cioè la sensazione netta di essere andati a casa con il massimo delle iniziative possibili che si potevano mettere in piedi. Tra l'altro le forze dell'ordine hanno dimostrato una enorme rigidità e una enorme incapacità di diciamo così gestire le variabili di un terreno montuoso e collinoso, insomma, e soprattutto di in certo senso gestire la fantasia e anche la determinazione delle persone, insomma. I tre assalti alle reti, con loro che inseguono i manifestanti, e mentre inseguono i manifestanti qualcun altro sale sull'escavatore, mentre inseguono quello sull'escavatore dopo 50 metri dietro una collina c'è altre persone che tagliano le reti, insomma dimostrano una determinazione da parte delle persone comunque di provare a resistere, insomma. Quindi il dato è un pochino questo. E tutta la settimana precedente ci sono state iniziative di basso profilo, diciamo così, però comunque tutte abbastanza importanti, tese a mantenere il punto della situazione. Il 13 una presenza alla festa patronale a Susa con una cinquantina di persone che hanno partecipato con un banchetto a questa festa di piazza gestita dal comune di Susa, che è un comune SITAB, innanzitutto lo ricordiamo, e che all'inizio aveva provato anche a vietare l'autorizzazione alla presenza di questo banchetto, insomma. I continui dibattiti al presidio Chiomonte, che si trova proprio di fronte alla centrale elettrica, che è il lato estremo di questo fortino militare, Questa mattina, anzi alle 14, è proprio recente, diciamo così, un'iniziativa importantissima a Torino di fronte alla regione, dove praticamente più di un centinaio di persone hanno di fatto, sono arrivate sotto gli ingressi della regione e hanno recintato le forze dell'ordine poste a difesa della manifestazione. Da 4 ore, 5 ore le stanno assordando con le cosiddette battiture, che sono state poi lette a forma di lotta qui nella valle, e consiste nel fare casino di fronte alle orecchie proprio dei difensori degli appalti mafiosi, insomma. Questo è un po' il quadro. Sono previste altre iniziative nel corso della serata, ma anche nella giornata di domani, quindi c'è comunque diciamo così una pressione costante, un non voler mollare. Certo è che il dato su cui bisognerà riflettere è il fatto che comunque la presenza militare è una presenza militare che comincia a essere abbastanza pressante. Dopo l'ingresso sull'autostrada, quindi sotto la baita della Maddalena, di fatto oggi le forze di occupazione hanno spostato ancora più avanti le loro postazioni, intercettando sia le persone sui sentieri che arrivavano verso la baita dal paesino di Giaglione, che è una delle due vie di accesso appunto alla baia stessa, ma anche lungo la strada. Identificazioni, indipendentemente che fossero compagni e compagne del movimento antagonista, ma anche semplici abitanti con famiglie, con bambini, che comunque hanno nella baia in ogni caso un punto di riferimento di questa lotta, ma anche della propria dinamica di socialità che esiste qui all'interno della valle, insomma. Quindi questo è un pochino il quadro, insomma. Ci si sta interrogando sicuramente su come si dovranno sviluppare appunto le iniziative nel corso del mese di settembre, e arrivare innanzitutto adesso ad agosto a mettere appunto le strategie giuste per far cadere questo progetto, tra l'altro con delle novità anche abbastanza importanti. Per esempio l'osservatorio che sui grandi progetti, che comincia a dire pubblicamente che sia la TAP che il ponte sullo stretto di Messina, in queste condizioni economiche di crisi generale, non sono certo una priorità per il paese. Questo è un elemento fondamentale, perché almeno a livello di principio, diciamo così, vengono riconosciute in un certo senso alcune delle ragioni che stanno mettendo sul tavolo il movimento Notav, insomma. È ancora importantissima, e questo è un elemento grosso, fondamentale, la campagna di criminalizzazione dei media. Non ce n'è uno che al di là di una cronaca assolutamente sterile non sia assolutamente atto a gettare fango e discredito sul movimento Notav, cercando sempre di andare a distinguere fra la popolazione che manifesta, che è diciamo succube di alcuni leader, e poi i manifestanti anarchici, autonomi questa volta anche, e violenti, che comunque provocano danno intorno alla valle, insomma. E i giornali più letti, quindi la Stampa di Torino, ma anche la Cronaca di Valsusa, insomma, sono giornali lettissimi da queste parti, continuano praticamente questa opera quasi quotidiana, tra l'altro portando i giornalisti proprio all'interno del fortino militare, facendoli girare con la polizia al di là delle reti, insomma. Questo è l'altro elemento fondamentale, per cui di fatto l'unico organismo di informazione che in un certo senso può dar conto di innanzitutto del livello delle mobilitazioni, ma anche delle ragioni un po' dei manifestanti, è di fatto il sito del movimento www.notav.info, che tra l'altro è aggiornato quasi in tempo reale, e lì insomma i compagni, le compagne, ascoltatori e ascoltatrici possono seguire passo passo, ora dopo ora, tutte le iniziative, comprese quelle della giornata di ieri, dove ci sono anche delle immagini molto belle che dimostrano insomma questa determinazione a volerci stare, nonostante la netta inferiorità numerica appunto dei compagni e delle compagne, insomma.